Difendere i bambini dalla violenza, dallo sfruttamento, dall'abbandono. Si può fare con un fiore? Sì, con le ortensie di Telefono Azzurro. Anche quest'anno, il 21 e 22 aprile, con un piccolo contributo, avrai una bellissima pianta di ortensie e aiuterai Telefono Azzurro ad aumentare le linee di ascolto. Prendi un'ortensia per me. Cerca la piazza più vicina su www.azzurro.it. I fiori d'azzurro fanno bene ai bambini.